alcun ex senatore stasera. Lo so, è venire a dire poca voce, voglio guardare in faccia la gente. Addirittura. Faccio fatica a intervenire stasera perché sono qui 10 anni, ma sono fuori da tutto. Domenico mi conosce molto bene. Ho fatto tante delle scelte politiche anche sbagliate, di cui ripeto. Ho avuto la possibilità di accedere anche a livelli molto alti dal punto di vista politico, nel senso che ero senatore di questo collegio. Per cui sono stato dentro nelle cose. E la scelta è stata, quando ho finito, me ne sono andato via da qui. Perché mi sono reso conto che è difficile portare avanti le cose, perché ti vengono frapposte in continuazione tutta una serie di situazioni. Le dico a voi perché so che voi potete credere a quelle cose che vi dico, perché quando l'ho raccontato a gente che alla mia età non ci ha creduto. Voi che credete nella validità dell'appartenenza a un territorio, siete gli unici che potete capire quello che vi sto dicendo io. Perché quando tentate, come ho tentato io e altri, di fare scelte diverse, il potere vi mette dentro di tutto, fa di tutto per stroncarvi. Noi ci siamo infiltrati dentro in un movimento che avevamo tentato di costruire qualche anno fa, prima che io andassi via del Mettegrasso, quando eravamo insieme ai sindaci dell'alta velocità da Reina a Milano Torino. Addirittura avevamo tentato di fare gruppi di intervento territoriale in alcuni comuni nella provincia di, cioè nella zona di Magenta e anche in altre zone. Ci hanno infiltrato gente molto pericolosa. Non vi faccio un nome su tutti, qualcuno di voi l'avrà conosciuto senz'altro, perché è diventato un uomo dei servizi e ogni tanto viene pescato con le mani in fallo. Questo qui era Roberto Sandalo, tanto per non far nome, noi ce lo siamo trovati dentro con un altro nome. E poi perché il potere usa questi sistemi, con le minacce non solo nei tuoi confronti, nei confronti della tua famiglia, e usa tutta una serie di altre situazioni. Non serve, a mio parere, sfruttare il canale politico per portare avanti queste cose. Il problema è non mollare mai, nel senso che far vedere che sul territorio sistematicamente qualcuno crede sempre che ci sia qualcosa di nuovo e di diverso da costruire. Perché qualcuno prima parlava di Chiamparino, di Fassino, si potrebbe parlare di Bersani, si potrebbe parlare di un sacco di altra gente, io potrei parlare di quelli che erano con me, che hanno legato i mani e i piedi con Nelci, di gente di servizi segreti infiltrati all'interno di tutti i movimenti politici, con nome e cognome e tutto. Tra i farlo. Se la famiglia fosse a questo punto. Visto le premesse, se ci tiene una famiglia meglio non entrare in particolare. Io lo dico sempre, l'importante è che c'è qualcuno che ci creda, se no è finito tutto. Io ho creduto molto su questo territorio. Ho lavorato parecchio all'interno del Parco del Ticino, però anche qui ci sono quelli che ti raccontano le cose, fanno finta di credere alle proposte di novità che fai e poi ti tagliano le gambe. Sono quelli che ti parlano, per esempio nella zona dove abito adesso io, abito nel Monferrato, nella collina Astisane, sono quelli che sono convinti che la tutela ambientale passa attraverso i pannelli solari, hanno messo pannelli solari tutto in mezzo ai vigneti, anche hanno costruito delle cose uscite. Io vado un po' così perché ho perso l'abitudine a raccontare queste cose. Parco del Ticino. Il Parco del Ticino è nato nel 69 sapendo già che c'era Malpensa al suo interno. Se andate a vedere il piano costruttivo di Malpensa, si parlava già di terza pista, si parlava già di tutte queste cose qui. Si parlava di metri cubi da togliere per gli scavi da fare, per la linea di collegamento con Malpensa, la linea ferroviaria. Si parlava di questa superstrada che doveva essere fatta, no? Tutte le file mettere raccolte, tutte queste minate. Il problema è non mollare mai, perché fin quando, cioè se tutte queste istanze di liberazione, per io non credo più alla politica, sono 15 anni che non vado più anche a votare, io mi sono rotto il coglione, però, anche perché non ci credo più a niente. E tutte queste istanze di liberazione qui devono continuare. Io stasera sono venuto perché sono anni che seguo la città, l'ho seguita nel 94, quando ho fatto convocare a Roma il Ministero dei Lavori Pubblici tutti i comitati anti-TAP che su questa linea qui adesso sono spariti tutti, chissà perché sono spariti, quando c'era Massimo Caravaggio, sindaco Marcano Contesone e tutti gli altri sindaci di Sedriano, di Arluno, di Osorno, che cazzo sono andati a finire questi qui? Chi li ha comperati questi? Parliamoci chiaro su queste cose di una volta per tutte. Per cui dicevo, io conoscevo il sindaco di Aosta, di Suso del 94, non mi ricordo più come cazzo si chiamasse. Stato il plano prima di diventare comunità montana? Nel 94 95. Non lo so. Quindi, quel periodo lì. Io sono andato a da quando seguo il discorso dell'alta velocità. Ecco, io solo dirvi queste cose qui, dirvi che stasera mi sono sentito di venire per raccontare queste cose, perché apprezzo molto quando si parla di queste cose qui. È bello credere, soprattutto nel proprio territorio, la lotta è dura. State attenti, ma non mollate questa volta. Non è stato... Grazie. Grazie.